24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino, quella di Bersani, sa? L'ha capita? Allora, farò un master in bersanese. Ma altro che si stanno a scannà, questa è la verità, si stanno a scannà passerotti, tacchini, ma che, cari ascoltatori, sono con le frecce puntate, il duello è già pronto, Renzi e Bersani ovviamente. Eccomi qua, sono tornato, ebbene sì. Allora, i vostri messaggi al 349-238-6666, questa è 24 mattino, siamo con Miriam Lucchetti in redazione, già pronta. Che saltella poco, quindi vuol dire che pare sia tutto a posto. Peter Bescapè, il nostro alpino in regia, e vorrei anche darvi subito il numero della segreteria telefonica. Dovete chiamare, dite la vostra: 02 4652 4492. E allora si apra il Parlamento. Su, forza, questa serrana. Apriamo il Parlamento. E ritroviamo, sono tornato, ma Nicole Minetti forza, sempre gente, qua. Accorrete al Parlamento, a offrire abbiamo barman il caffè generosi a tutti. Come Santa Claus, li paghiamo noi e con quello che paghiamo voglio bere tanto da tornare storto come il dottor. Allora, sono stato via 10 giorni dall'Italia, sono andato un po' lontano. Bimbo alieno, buongiorno, ben ritrovato, ti ritrovo qui. Buongiorno a tutti, bentornato. Oggi affronterai un sacco di cose. Sei partito dicendo che andavi in Corea. Siamo tutti curiosi di sapere adesso dalla Corea notizie dal posto. Da Pyongyang, sì. Saluto Mario Adinolfi, buongiorno Mario. Buongiorno. Grazie, sono tornato da 10 giorni. Sono tornato, la prima cosa ho chiesto a un mio amico che è abbastanza informato. Dico, dai, fammi un sunto, cosa è successo in Italia? Ma ci ha messo un secondo. Niente! Adinolfi, niente! Quasi niente, non è successo nulla! Non ti sei perso niente! Mamma mia, ragazzi! Quando ti va via dall'Italia, anche a me capita abbastanza spesso, hai la sensazione di respirare. Sì. Meno tanto appassionata a cosa, uno pensa. Poi, allora, ero in Oriente, e leggevo alcuni giornali, i giornalucci, il Wall Street Journal, cioè li sfogliavo, l'International era al trim. Oh, dell'Italia manco mezza riga! Dell'impero. Io cercavo, come si dice passerotti in inglese? Come si dice tacchini, bimbo alieno, come si dice tacchini, passerotti? Niente. Non c'era niente. Onestamente, guarda, mi cogli passerotti in inglese proprio. Non lo sai, tacchini, tarkis, vabbè, questo. No, non è successo niente, bimbo alieno, i mercati sono sempre, cioè, l'economia. Non è successo niente, ci sono stati saggi, hanno fatto, adesso tu non lo saprai perché eri via, però sono stati incaricati dei saggi. Sì, di, no, quello mi ricordo, c'era. Anzi, mandiamola subito perché Adinolfi sarà sicuramente un fan. Nick Carter, te lo ricordi? Nick Carter, che finiva con l'assistente Ten, quello che concludeva sempre così. Vince il saggio, tutto è bene quel che finisce bene e l'ultimo chiuda la porta. Più o meno così è andata, dice il saggio. Questa è proprio la prova di quanto sia inutile la roba italiana. Già 35 anni. Che lo volevi su Wall Street Journal il lavoro dei saggi? Non lo so. The wise man, cercavo i wise man in Italia, no, wise man. Invece bimbo alieno. Che l'International Tribune ha visto il documento e l'ha postato direttamente nel circuito. Mannaggia, no. Sì, no, bimbo alieno, parlavano di queste cose così, invece della finanza, della Corea del Nord, cioè, ma dell'Italia, dei saggi, niente. I mercati hanno, come stanno, sono in fibrillazione oppure questo stallo italiano? Ma che, cioè, quando mai? Ma i mercati aspettano a fibrillare quando ci sarà un governo a cui dare delle indicazioni, mi spiego, cioè sì. I mercati ti shakerano quando poi tu hai la possibilità di reagire e fare delle riforme di qualche tipo, quindi bisogna aspettare di avere un governo per avere una bella shakerata di mercato. Sì, tra l'altro oggi i giornali sono una sciagura, non so, Mario, se tu li hai già letti, tutto è partita la battaglia per il Quirinale, ma adesso veramente si fa sul serio, adesso tra l'altro vi chiederò poi i totonomi. Intanto Mario Adinolfi, tu che sei nel Partito Democratico, lo conosci, sei stato anche un po' così... ecco la tua irruenza sempre, sei stato con Renzi, Bersani. Che sta succedendo tra Renzi e Bersani? Si stanno scannando ormai alla resa dei conti. Siamo arrivati, io lo dico da tempo, insomma, che per Renzi non c'è altra strada se non fuori dal Partito Democratico. È scoppiato un corpo estraneo dal PD, il PD, diciamo, Bersani gli ha fatto un attacco pesantissimo, insomma, sabato, su questa storia del fatto che Renzi aveva detto fate presto, che mi sembrava abbastanza ragionevole, diciamo. E ha detto no, chi dice fate presto un demagogo, un irresponsabile. Renzi se l'è presa, ha reagito ieri via TG5 molto duramente, secondo me siamo allo showdown. Poi ripeto, sono convinto che la vicenda di Renzi, se vuole trovare compimento, è fuori dal PD, perché il PD non lo sopporta antropologicamente. Sì, effettivamente così. Tra l'altro oggi Renzi scrive, prende carta e penna e scrive una lettera pubblicata da Repubblica in prima pagina, ma non voglio entrare troppo subito sulla questione Quirinale, perché parla del Quirinale. Prima sentiamo Renzi ieri al TG5 come reagisce contro Bersani. Mi dispiace che Bersani cerchi l'insulto e l'accusa, per di più tra persone dello stesso partito, ma sarebbe un errore anche accusare gli altri. Del resto Bersani mi ha detto arrogante, indecente, qualunquista, perché io ho soltanto detto, insieme a tanti altri, dal presidente degli industriali, persino al segretario della CGIL, che bisogna fare presto. Bisogna fare presto, infatti noi lo diciamo invece, fate con calma. Io è da un po' di tempo che dico, no, ma fate con calma, non c'è mica tutta questa fretta. Che fretta c'è, no? Insomma, tanti mercati sono lì, ogni giorno aprono alle 9 per quel che riguarda l'Europa e chiudono alle 5. Insomma, le aziende chiudono, adesso non è che si può pretendere tutto. Fate con calma, fate tutto con calma. Allora, vogliamo entrare in questa storia del Quirinale, perché i giornali sono pieni di nomi che sono in fibrillazione, sono più gettonati sono quelli: Amato, Prodi, Franco Marini, Anna Finocchiaro, anche se Renzi ha detto no, Anna Finocchiaro no, la ricordiamo all'IKEA che fa la spesa. Vabbè, poi Romano Prodi, c'è stato Berlusconi due giorni fa, Berlusconi a Bari su Prodi, ha detto questo: impazzireste di gioia se il nostro futuro capo dello Stato, se il nostro futuro Presidente della Repubblica fosse Romano Prodi. Che peccato, era il mio candidato preferito. Bene, vedo che siete molto reattivi, magari un po' ruvidi, ma assolutamente assennati. Avete ragione, con Prodi presidente ci converrebbe andare tutti all'estero. Vabbè, ieri Prodi credo abbia risposto sì, ci sarebbe un esodo di massa, comunque non sono della partita, perché l'altro al Quirinale non è che ti devi candidare, insomma, ecco come finirà questa situazione che non so. Entro la settimana intanto avremo un presidente ad Inolfi? Entro questa settimana? No, non credo. No, fate con calma. Sì, credo si voterà la prossima, perché dal quinto scrutinio diventa possibile, perché dal quarto si darà la maggioranza assoluta. A mio avviso scatterà sul quinto il quorum necessario. Io credo che si andrà a maggioranza alla fine, non vedo le condizioni per l'intesa. A maggioranza, sì, perché all'inizio... Tra l'altro, pensate, ci saranno 1.007 elettori, grandi elettori, sono i 1.007, perché Camera, Senato, più grandi elettori, tutti in un'aula fatta per tenerne 630, no? L'aula di Montecitorio. Immagina, io vorrei vedere Renzi in braccio a Bersani. No, Renzi non lo vedrai. No, sì, è vero, infatti, Renzi non lo vedrò, perché non è stato, eccolo subito Bimbolino, non è stato nominato tra i grandi elettori, ecco Bimbolino, bello lungimirante mosso del PD. Prima di vedere Renzi in braccio a Bersani hanno evitato questo. Toto Nomi, forza, è il momento di Toto Nomi, attenzione, perché il giornale tra l'altro ha una teoria quasi tra il complottista e clamorosa, sulla quale tra poco vi interrogo. Però Toto Nomi, Bimbolino, chi vuoi Presidente della Repubblica? Forza. Ah, proprio così? Sì, tanto qua ormai ognuno dice, c'è chi propone Gino Strada, quindi noi possiamo dire quello che vogliamo. A Milena Gabanelli anche propongono, forza. Ma dunque, io a differenza di quello che dice Adinolfi, cioè che tanto si finirà comunque maggioranza, voglio ancora sperare che si possa trovare un nome che raccolga cosiddette grandi, no, grandi intese, ma come, ma come parli? Sembri un saggio. Come parli? Sembri un saggio. Sembri un saggio. Un saggio. Uno dei dieci no, saggi. Vabbè, no. Beh, l'argomento è grave, importante. Ah, un tono. Ma di un nome, cioè, no, chi se ne frega? Di no, un nome. Io credo che bisognerebbe partire da. Da quei dieci nomi che sono usciti dalla lista, dalle cosiddette Quirinari, anche se il concetto assolutamente non mi piace, perché sembra di dover votare Presidente della Repubblica in base alla popolarità. No? Quindi, allora anche tu potresti volere Milena Gabanelli o Gino Strada. Sono... Ecco, magari facendo appunto, partendo da quei dieci, facendo un attimino, come dire, una selezione in base a dei principi logici. Ho capito, cioè, ho capito, vuoi Prodi, c'è anche Prodi nella lista, vuoi Prodi. Beh, non mi, insomma, a me non dispiacerebbe. Ecco, Romano Prodi vuole Bimbalino, ne abbiamo estorto ad Adinolfi. Insomma, tu che pensi, tra l'altro, anche questa storia delle Quirinari, esatto, scegliere, e poi dici un nome, eh? Tutto sommato, se ne fanno tante su internet in particolare, insomma. Poi se vai a vedere il miscuglio di nomi dal web è più o meno sempre lo stesso. Ho capito, ma cos'è un sondaggio? Cioè, i sondaggi, volete i pantaloni shorts? O fare il solito antigrillino? Hanno fatto una cosa, ma... hanno detto adesso andiamo con i mitra. Guarda che mi dicono ho fatto l'antigrillino, ma io l'ho dichiarato anche su Twitter, l'ho votato alla Camera il Movimento 5 Stelle. L'hai votato alla Camera? L'ho votato alla Camera. E quindi perché quindi... sono alla Camera? E perché al Senato ho votato il PD. Ho fatto... Hai votato il PD, vedi, il vecchio caro richiamo della foresta. La governabilità, l'Ohio, sì, d'Italia, la governabilità, infatti questo è il risultato. Della sì, ma non troppo, diciamo. Vabbè, quindi... Rivoluzione, ma non troppo. Io vorrei, mi piacerebbe tantissimo una cosa, sai, tipo votano Grillo, tac, Presidente della Repubblica. Per cui il PD vota Grillo, perché una cosa è una mossa del cavallo, quelle cose che sparigliano completamente, non succederà mai, e allora voteranno l'ottuagenario. Il problema del voto all'ottuagenario è che questa volta non ce ne sono di brillantissimi. Cioè, chi sarebbe? Franco Marini? Voteranno Franco Marini, penso che alla fine voteranno Franco Marini, però è una... e lo voteranno a maggioranza, però questa è la cosa paradossale, insomma, non lo voterà il PD, il PDL, farà fare la scelta integralmente solo a PD e Scelta Civica. E quindi diranno, vabbè, se facciamo Prodi spariamo sulla legislatura, perché è chiaro che se Romano Prodi è eletto presidente tra tre mesi votiamo, quindi spiegarlo agli italiani, non è che Prodi può costruire condizioni. E infatti il Corriere scrive che il Viminale sta già studiando ipotesi di scuola la prossima data del voto, a luglio, luglio. Io credo che alla fine, siccome questi non vogliono andare a rivotare, perché avendo io fatto il parlamentare, so che la prima mission del parlamentare e allungare la legislatura, allora in maggioranza voteranno per Franco Marini, cioè per un nome tutto sommato gradito anche al PDL, che però non se ne assumerà la responsabilità. Ma quadro, Franco Marini, dice Maria Di Nofi, segniamocene. Poi Bimbalieno vuole Prodi e Maria Di Nofi dice Franco Marini. Allora, dopo il traffico, c'è la segreteria telefonica e vi racconto quello che dice il giornale. Alessandro Sallusti oggi fa una teoria quasi complottista a dire: e se invece nel centro-sinistra volessero mettere al Quirinale, è suspense sul nome. Tra poco. 24 mattino. Veramente io sono proprio arrabbiata con voi, perché ho l'impressione che questi messaggi e anche le telefonate siano telefonate pilotate. Adesso io, proprio perché sono più arrabbiata adesso, ho detto faccio lo stesso sta telefonata e mi sfogo dicendo questo. Astronzo De Grillo, hai finito di far pagliaccio in mezzo alle piazze d'Italia, hai voluto la bicicletta e mo te cocca di faticà, te tocca di pedala, e se non vuoi pedalà, te tocca di tornartene a casa tu con quei quattro leccaturi che ti stanno appresso. Come si permettono queste due marionette, Berlusconi e Bersani, di spendere altri soldi per fare delle manifestazioni contro la povertà? Ma la gente non lo prende a calci in culo, e sicuramente si sono telefonati per far fuori Renzi. Io ho votato 5 Stelle e non mi pento. Io ero liberale, sono sempre stata liberale. Che vergogna ragazzi. La cosa incredibile è come si possa permettere ancora a questa gente incapace e ladra di tenere ferma una nazione dopo la rovina a cui ci hanno portato. La colpa è di chi consente tutto questo, tanto loro sono protetti sempre e solo da eterni privilegi. Ci vorrebbe la Corea. La Corea, non lo so, questa evoca addirittura la Corea. Allora, 0246524492 è il numero della nostra segreteria telefonica. Telefonate, che quindi da questa settimana torneremo con tanti messaggi. Siamo con Bimbo Alieno e con Mario Adinolfi. Allora, il nome è questo. Attenzione, udite, il giornale propone questa teoria, Alessandro Sallusti. E se invece la sinistra volesse mettere al Quirinale, la sinistra, attenzione, Berlusconi, Mario Adinolfi, la teoria è questa: lo mettiamo lì, così lo togliamo dalla competizione delle imminenti prossime elezioni. Promoveatur ut amoveatur. Non esiste. Crolla l'editoriale di Sallusti. Cioè, forse finalmente. Vediamo i forconi al largo del Nazareno, provano rastrelli, bastoni. Non conoscono proprio, allora evidentemente da tutti frequenta poco il popolo, chiamavo di centro-sinistra, veramente succede la rivoluzione. Comunque, il giornale scrive che la pratica è aperta, cioè sono queste cose là sotto. Non c'è nessuna possibilità. Accordi. 0,0. Allora, devo introdurre un tema molto serio, che è questo. I tedeschi, con Der Spiegel, vorrei da Bimbo Alieno già un commento, hanno puntato l'accento con una lunga inchiesta questa settimana a dire ma la povertà in Italia esiste davvero? Cioè, così come viene raccontata la crisi? E certo, lo so, sono i tedeschi, sono quelli che dicono Cipro si salvi da sola, è giusta, è la ricetta giusta, il rigore, eccetera. E potrebbe esserci anche questo dietro questa inchiesta. Ma Der Spiegel si chiede, è vero, ci sono le persone che si tolgono la vita, ma c'erano anche prima. È vero, c'è la crisi, ma c'era anche prima. Non è che gli italiani si piangono un po' troppo addosso e la stanno facendo un po' più dura di quello che in realtà è? Bimbo Alieno. Guarda, il problema è che Trilussa è nato in Italia e non in Germania, probabilmente, perché ci sono queste statistiche che definiscono la ricchezza media italiana, la ricchezza privata media italiana, come effettivamente superiore a quella dei tedeschi. Per quello che i tedeschi si chiedono, e come mai? Ma state nascondete qualcosa? Vabbè, diciamo che questo dipende anche dal fatto che l'Italia ha avuto una politica redistributiva negli anni è fortemente redistributiva, indebitandosi come Stato, quindi noi abbiamo una maggior ricchezza privata anche perché abbiamo un maggior debito come Stato, tant'è che voglio dire, le condizioni del debito italiano le conosciamo molto bene, però come dicevo nella battuta, cioè, è anche una questione di medie, perché la distribuzione di questa ricchezza non è che sia esattamente, come dire, equanime, no? No, però è interessante questo, guarda che anche Mario sui giornali Il Secolo XIX ci fa una pagina, diciamo una cosa brutale. È veramente, io purtroppo su questo mattino sempre le antipatie di voi. I tedeschi hanno straragione. I tedeschi sono un popolo che fa sacrifici fortissimi a livelli di produttività molto più alti, cioè lavorano più di noi, questo è un elemento certo. Adesso si ritrovano dentro questa moda per cui sono i cattivi, perché poi il tedesco viene bene come cattivo, no? Abbastanza. E perché sono i cattivi? Perché non vogliono pagare quelli che a Roma vengono chiamati i nostri buffi, cioè i nostri debiti. Poiché ogni volta, ma perché non vuoi pagare il debito, i disastri che fa l'Italia? Perché loro hanno il rapporto debito-PIL al 60% e noi al 128%, e però vogliamo ancora dei margini per fare le cose. In più l'Italia ha questa cosa drammatica, che ha una condizione, è vero, di crisi che a questo punto comincia a essere percepita, ma in realtà, al di là della statistica ufficiale, ha un sommerso, un livello di evasione fiscale e altra cosa drammatica nel Mezzogiorno d'Italia, una economia parallela criminale,

Vladimir Putin è un copione, non è che ha mentito, ha tre lauree intanto Putin, ma su un master in economia preso all'università mineraria di San Pietroburgo, conseguita nel 96, c'è un mistero, avrebbe copiato tutto. Anche Putin è un copione. Su Repubblica, pagina 16, l'hanno beccato una fondazione americana, ha visto che interi capoversi, circa il 60% delle 218 pagine della sua laurea in questa università, e almeno 6 diagrammi sono stati copiati pari pari da un manuale di economia americano tradotto in russo nel 94 dall'Accademia del KGB, cioè i servizi segreti passati di cui ha fatto parte Vladimir Putin. Anche Putin ha copiato la tesi di laurea. Cosa farà adesso? Si dimette Vladimir Putin? Oppure, non lo so, fa un ordine esecutivo per riabilitare tutti quelli che hanno copiato la laurea? Si potrebbe anche fare così, Vladimir Putin. Track, una firma e via. "24 mattino, la politica nel tunnel". Bene, sì, la politica è ancora nel tunnel. Io, ripeto, sono andato via 10 giorni dall'Italia, sono tornato, ma è sempre lì, nel tunnel. E tra l'altro più avanti vedremo di collegarci con il capogruppo al Senato di Scelta Civica per l'Italia, Mario Mauro, per parlare di questa situazione della politica. Ma prima, cari ascoltatori, vogliamo parlare di un fatto di cronaca che oggi non trovate sui giornali, per la verità è uscito sui giornali qualche giorno fa. Voi vi ricordate forse un nome, un cognome? Pietro Maso. Pietro Maso, ve lo ricordate? Il 17 aprile del 1991, dunque 22 anni fa esattamente, uccise con tre complici, tre amici, i genitori a Montechia di Crosara in Veneto. Era quel Veneto produttivo, quel nord-est ricco che Pietro Maso viveva da giovane ragazzo rampante, decise insieme a tre complici di uccidere i genitori per l'eredità. Ricordate forse Pietro Maso ai processi, Pietro Maso con quel inconfondibile foulard da viveur, Pietro Maso al quale molte ragazze scrivevano innamorate lettere in carcere, Pietro Maso al quale molti ragazzi scrivevano in carcere lettere dicendo hai fatto bene e noi siamo con te. Pietro Maso che divenne anche un personaggio in qualche modo in quell'epoca. Pietro Maso che da oggi, proprio da oggi, 15 aprile 2013, è un uomo libero. 22 anni dopo quell'atroce delitto, per la verità la sua pena era di 30 anni e 2 mesi, ma e poi c'è stato ovviamente l'indulto, la buona condotta in carcere, i 3 anni di indulto, i 45 giorni maturati ogni 6 mesi per buona condotta in carcere, insomma tutto legale, e ora Pietro Maso è un uomo libero. Ogni volta che succede queste cose ci si in domanda e ci fanno domande sulla giustizia italiana, e noi le vogliamo porre intanto al giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha firmato la libertà di Pietro Maso, Roberta Cossia, che saluto. Buongiorno dottoressa Cossia, è caduta la linea, adesso la recuperiamo. Allora intanto fatemi salutare Gianfranco Bettin, buongiorno e benvenuto Bettin. Bettin tra l'altro è un politico e studioso veneziano che proprio Pietro Maso ha dedicato anche parte della sua vita, parte dei suoi studi. Bettin, Pietro Maso è un uomo libero, è una cosa che deve scandalizzare? Ma stando alla nostra Costituzione dovrebbe essere una buona notizia, nel senso che il recupero di una persona che ha commesso un'azione in questo caso orrenda tra l'altro, ma gravissima anche dal punto di vista giudiziario, è negli obiettivi della nostra Costituzione. E quello che dice il provvedimento del giudice è questo, che Maso in carcere ha compiuto un percorso di riabilitazione e quindi può uscire un po' prima di quanto la sua condanna non prevedesse. Quindi dovrebbe essere una buona notizia, cioè è una buona notizia dal punto di vista del rispetto della Costituzione. Allora l'abbiamo recuperata e voglio salutarla, la ringrazio. Roberta Cossia, dottoressa Cossia, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, lei è giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano, si dice è il giudice che ha firmato tecnicamente, ma in realtà perché è toccato a lei? Ce lo spieghi anche tecnicamente. In realtà non è, io non ho firmato nessuna liberazione, nel senso che la liberazione è automatica nel momento in cui si raggiunge l'ultimo giorno di fine pena, che sarebbe oggi per Pietro. E, tocca a me perché al Tribunale di Sorveglianza di Milano ci suddividiamo i fascicoli in base alle lettere dei cognomi, quindi una cosa un po' banale, diciamo, è solo un modo per ripartire i fascicoli e io ho la M da svariati anni. La quindi, M, quindi è toccata. Ecco. Si è posta, al di là della firma tecnica, che appunto, come ci ha spiegato, è un fine pena, quindi voglio dire, si può discutere se la pena, ma non è il suo compito, se la pena sia stata adeguata, poi c'è stato l'indulto, c'è stata la buona condotta in carcere. Dal punto di vista tecnico non c'è stato nessuna abbreviazione, nessuno sconto, ha finito la sua pena. È un uomo ancora molto giovane, quindi ha una vita davanti, ha compiuto un gesto terribile come quello dell'aver ucciso i genitori per l'eredità. Lei si è posta qualche tipo di problematica di questo tipo quando ha dovuto fare i conti con la libertà tecnica di Pietro Masso? Ma guardi, per il lavoro che facciamo noi, cioè, l'avere a che fare con persone che hanno commesso delitti efferati è un po' un'abitudine, ci si deve abituare, diciamo, perché non è l'unico che mi è passato per le mani, e forse l'unica cosa che posso dire di aver imparato in questi anni è che dietro ogni delitto, anche il più efferato, c'è una storia personale di una persona in carne ed ossa, no? Nel momento in cui viene, lo incontriamo, tutto appare molto diverso da come poi appare sulle carte e da come poi viene raccontato anche in questi programmi televisivi, per cui tutto assume un colorito anche più macabro rispetto al fatto che già di suo non posso dire che sia un fatto bello. Cioè, ecco. Lei ha incontrato, diciamo, il volto della normalità, se possiamo dire così, Pietro Masso? Sì, no, un volto, una storia di sofferenza, ecco, non, questo va ricordato e va detto, che dietro queste storie e anche queste esplosioni di violenza incontrollabile, come in questo caso, ci sono delle storie di sofferenza che durano da anni, quindi no, parliamo di persone gravemente sofferenti e che forse il carcere dovrebbe aver curato in qualche modo, tra virgolette, no? Dovrebbe servire a questo, ma come scrive anche l'ordinamento penitenziario, a rimuovere tutte quelle cause che hanno portato al comportamento deviante, perché dietro i comportamenti devianti ci sono delle ragioni. Senta, di recente è uscito un articolo molto intenso di Carlo Verdelli su Repubblica, che ha riepilogato tutta la vicenda di Pietro Masso e le ha fatto anche una domanda, le la faccio anch'io per i nostri ascoltatori di Radio 24. Molti italiani si chiedono se sia giusto che dopo un delitto così efferato, a distanza di 22 anni, una persona sia già, o non so se devo togliere la parola, già libera. Lei ha risposto: io a mio figlio ho detto che sì, è giusto così, è vero? Sì, sì, è vero. Un giorno in macchina mio figlio, che ha 12 anni, mi ha chiesto: ma secondo te è giusto che Pietro Masso esca dal carcere? Perché è chiaro che questa è una domanda che torna. Io non so se le persone abbiano un'idea anche solo vaga di cosa può significare passare 20 anni in carcere. E ci sono paesi del nord Europa dove la pena massima è 20 anni. Faccio l'esempio brevemente della Norvegia. Il caso Breivik. Infatti, quella strage pazzesca, e quello che mi ha colpito è stato il fatto che il ministro della giustizia, nel momento in cui è avvenuto, proprio nel momento preciso, si è presentato in televisione per dire una cosa che in Italia forse non sarebbe stata detta mai, cioè: questo ci spinge a rafforzare maggiormente le garanzie per i detenuti e comunque le misure alternative alla detenzione. Lei sa che ci sono anche paesi diversi, in America c'è la pena di morte. Ah, no, non ho dubbi, però dal punto di vista del... Cito l'America perché è, diciamo, il paese più magari affine a noi, ci sono anche poi giustizie dove si procede con metodi più sbrigativi. Ah, non ho dubbi, però guardi, dal punto di vista dell'abbattimento del tasso di criminalità hanno avuto una riuscita nulla questi paesi che hanno perché hanno una penalità molto forte, un tasso di carcerizzazione altissima, voglio dire dal punto di vista della sicurezza sociale non hanno avuto i risultati, questo va detto, quindi va anche, bisogna che le persone lo sappiano. Non è che la pena di morte, al di là di ogni considerazione morale, non riduce il crimine, è vero, no, non riduce il tasso di crimine. Non solo non lo riduce, peggio, lo aumenta. E però lei a suo figlio, insomma, cosa ha detto? È giusto? A mio figlio ho detto che vale per tutti, come anche per i bambini, nel momento in cui si ha un comportamento deviante e si prende il meritato castigo e lo si sconta, poi basta, non è che viene recuperato di nuovo, sarebbe ingiusto. Gli ho fatto l'esempio, se ti tolgo la PlayStation una settimana, non è che poi quando è finita la settimana dicono scherzavo, te lo volevo togliere due, sarebbe percepito come una grave ingiustizia da chi lo subisce, no? Il patto, diciamo, tra lo Stato e Petromaso era 30 anni di galera che poi si sono stati ridotti, e quindi questo è stato rispettato. Vorrei tornare per un attimo, dottoressa Cossia, da Gianfranco Bettin. Sì. Il Petromaso che esce oggi è sicuramente un Petromaso diverso, in una società profondamente diversa. Cosa rimane di quel delitto? Solo un ricordo storico, se vuole, Bettin, di quello che fu, anche il processo, lo scandalo, come tutti le vicende di cronaca poi hanno una storia limitata, più o meno limitata nel tempo, ma poi si chiude una pagina. Ma un delitto che segnò a fondo penso l'intera Italia, ma certamente la regione di Pietromaso, che è il nord-est del Veneto in particolare, un delitto che si collocò un po' a spartiacque tra due epoche della storia sociale, economica e culturale di queste zone. Eravamo già dentro il boom produttivo ed economico, una nuova stagione anche dei consumi e delle attese, anche delle illusioni che venivano a crearsi, però non ancora così lontani dalla povertà di poco prima, insomma. Quel delitto segnalò, e questo resta come eredità anche, un rischio forte di disambientamento, di sradicamento da vecchi valori senza entrare in una nuova dimensione morale capace di fare i conti con il rispetto dell'altro, perfino dell'altro più prossimo, i genitori in questo caso. Fu un delitto, tra l'altro, poi anche replicato altrove in queste modalità, la cui importanza non risiede tanto nella frequenza statistica, che per fortuna è rimasta limitata, ma nella qualità, per così dire, nel tipo di aberrazione che mostrava. E sì, da questo punto di vista il recupero di una figura anche simbolicamente importante come Maso può rappresentare un'occasione per ripensare a quello che è accaduto, le sue radici, ma anche a come se ne può uscire. Sì, tra l'altro ricordiamo, fu un delitto il 17 aprile 1991 con Petromaso, che all'inizio parlò di una rapina, poi dopo tre giorni, scusa la rapina, crollò e confessò questa strage che aveva pensato e meditato a lungo, aveva cercato di mettere in atto anche con altri metodi prima di coinvolgere tre amici e ricevere, aspettare i genitori in casa di sera, colpirli. In realtà quattro. Quattro amici. Ce ne fu un altro che li accompagnò, poi non partecipò materialmente al delitto. Rimase fuori. Non si sognò neppure di dirlo ai carabinieri, che arrivarono solo per propria capacità di intelligence, diciamo. No, ma fu anche proprio l'icona di una aberrazione. Ricordiamo tutti il racconto di quando, finito il delitto, consumato il duplice delitto, i quattro andarono, o i cinque a questo punto, andarono a ballare, di fatto, andarono a divertirsi, a fare serata, pronti magari a pensare, ecco, l'eredità è nostra e poi ce la spartiamo. Allora facciamo così, le 8:30 minuti, parliamo di Petromaso, uomo libero da oggi, e gli interrogativi che si pone e che si pongono gli italiani di fronte a questi delitti efferati, quando vedono che una persona che comunque ha scontato la sua pena, giusta, poca, ampia che sia, torna a essere un uomo libero. 24 mattino. Eccoci qua, allora, le 8:36 minuti, stiamo parlando del caso di Petromaso, 22 aprile scusate, 17 aprile del 91 uccise i genitori. Da oggi è un uomo tecnicamente libero. Siamo con la dottoressa Roberta Cossia, è il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha firmato tecnicamente il fine pena per Pietro Maso. Siamo con Gianfranco Bettin, c'è anche con noi il sindaco di Montechieri Crosara, Edoardo Pallaro. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a buongiorno. Tutti, buongiorno agli ascoltatori. Tra un attimo sono da lei, tanto ci sono alcuni messaggi, dottoressa Cossia, addirittura alcuni messaggi sia su Twitter, i nostri messaggi dicono finalmente un giudice che scrive un'ascoltatrice, mi fa fare pace con tutti i giudici d'Italia. Lei sa, ci sono anche persone che guardano la magistratura con un pizzico di, come dire, di scetticismo, dottoressa Cossia. Devo rispondere anch'io a un ascoltatore che su Twitter scrive: ah, ma insomma una trasmissione del genere solo per far chiedere la pena di morte. Allora, caro ascoltatore, forse non conosce la mia storia professionale, se c'è una persona che avversa la pena di morte sono io. Ero nel 2000 fuori dal carcere di Jarrett in Virginia quando ci fu l'esecuzione di Derek Rocco Barnabei, vi ricordate, il condannato italo-americano in Virginia per il quale Radio 24 fece una straordinaria campagna di sensibilizzazione. Io ero lì fuori dal carcere, fui in prima persona impegnato in quella campagna insieme al direttore di allora Giancarlo Santalmassi. Si figuri se io sono per la pena di morte. Se c'è una persona contraria che avversa la pena di morte sempre e comunque, ecco, l'ha trovata in me, visto che conservo ancora gelosamente tutte le lettere che Derek mi spedì dal braccio della morte. In ogni caso, dottoressa Cossia, Pietro Maso è un uomo libero, che uomo è? Questa è una domanda molto difficile. D'altronde noi non facciamo un lavoro di tipo psicologico nelle carceri italiane, se non molto relativamente. Io ho ritenuto che la sua misura alternativa, che poi è stata la semilibertà, che consiste nell'uscire la mattina, svolgere un'attività lavorativa e tornare nel pomeriggio tardo, verso sera, fosse riempita, diciamo così, anche da un percorso di natura psicologica che Pietro ha svolto in un centro per la mediazione che è finanziato dal Comune di Milano. Quindi lui un lavoro di natura psicologica l'ha fatto. Io credo che sia una persona che conserva una sofferenza che è la stessa che ha, diciamo così, portato poi alla commissione del delitto, con l'aggravio del gesto che poi è stato compiuto, che quindi non credo sarà mai una persona, diciamo così, assolutamente serena. No, sa perché glielo chiedo? Perché nelle polemiche che si insinuano in queste vicende c'è anche da registrare questo. Domani uscirà un libro dedicato alla storia di Pietro, scritto proprio a quattro mani con una giornalista da Pietro Maso. Leggevo anche addirittura, ma non lo so se è vera questa notizia, che Alfonso Signorini avrebbe tentato in passato di coinvolgere Pietro Maso in una trasmissione televisiva bloccata da una firma del giudice, e non so se il giudice in questo caso fosse lei oppure se la notizia sia totalmente infondata. No, la notizia è fondata, ci fu un tentativo di coinvolgerlo in una trasmissione che riguardava l'amore per i genitori. Cioè questa cosa è vera? Cioè Alfonso Signorini ha cercato di invitare... No, non era proprio Alfonso Signorini, comunque diciamo così era uno dei suoi collaboratori e al momento mi era stato mandato il copione come avrebbe dovuto svolgersi la trasmissione. Ma al di là dell'oggetto, che è anche un po' surreale, no? Cioè una trasmissione, sull'amore per i genitori, ecco, in cui doveva partecipare Pietro Maso? Sì, una cosa prenatalizia, sì, infatti a me era sembrato non solo totalmente fuori luogo, come minimo, considerando, ecco, la persona, diciamo così, e anche il delitto che era stato commesso, mi sembrava proprio completamente fuori luogo, ma poi soprattutto, anche parlandone con lui francamente, mi era sembrato che, ma lui è stato più e più volte contattato, mi era sembrato che appunto fare uno spettacolo della sua vicenda negativa, dei suoi gesti di devianza, fosse il peggio che gli potesse avvenire. E quindi lei ha negato con la fine, è stata lei a negare? Io ho negato l'autorizzazione, ma anche lui poi ora della fine era stato convinto, era convinto del fatto che sarebbe stato assolutamente fuori luogo, perché io credo che le persone come lui debbano aspirare quanto più è possibile all'anonimato. Ora, di questo libro io mi dispiaccio moltissimo, perché credo che sia ora un po' di finirla, di farne uno spettacolo poi, no? E di continuare a farne uno spettacolo all'infinito, che diventino film le loro vicende, che diventino delle icone negative. Io onestamente penso che sia ora di finirla. Beh, però che cosa c'è di male? Adesso io il libro ovviamente non l'ho letto, la domanda. Che cosa c'è di male se lo stesso Pietro Maso vuole, poi bisogna capire cosa scriverà in questo libro, vuole raccontare la, diciamo, anche questo aspetto della sua vita che è incancellabile. No, non ho dubbi che sia incancellabile, però è ora di passare oltre, no? Sarebbe per lui molto meglio passare oltre. Ora, se poi questo ha il significato per lui di ripartire, questo non lo so. Io ho la sensazione che significhi restare sempre ancorato in qualche modo al personaggio negativo. Su questo invece... la posso capire, perché scrivere un libro vuol dire poi che inevitabilmente, essendo poi un uomo libero adesso, arriveranno gli inviti a partecipare in trasmissione, a parlare della sua vicenda. Certo, mi ha veramente sconvolto che qualcuno abbia potuto pensare di invitare per una trasmissione pre-natalizia Pietro Maso per parlare di una trasmissione nella quale si doveva parlare dell'amore per i genitori. Questo, lei mi conferma che è successo, insomma. Le dico, sono sconvolta quanto lei, ma nel senso che io credo che alla fine, purtroppo in Italia per molti anni tutto quanto ha fatto spettacolo, no, tutto fa spettacolo, anche questo, e quindi a me poi alla fine mi stupisce relativamente, per quello che mi concerne, che mi riguarda, il mio lavoro consiste nel dire assolutamente no. No, ma è chiaro, e quindi ha detto di no. Andiamo per un attimo a Montechieri Crosara. Sindaco, allora, Edoardo Pallaro, sono passati 22 anni, veramente due generazioni. La prima domanda che le chiedo banalmente è che cosa rimanga di quel ricordo, anche se è una cosa che immagino ha devastato totalmente il paese dal punto di vista dell'impatto, però sono passati tanti anni. Sono passati tanti anni e la devastazione del paese è stata fatta dai mass media, dai giornali, da coloro che hanno agito negativamente sulla società di Montechieri Crosara e sulla società montecredese, che non ha nessuna responsabilità. Lei sa benissimo che la responsabilità penale è personale, e poi ci sono anche degli studi di carattere biologico che certamente dicono che può esserci in determinate famiglie, in determinate situazioni, la ripetizione di questo atteggiamento, diciamo. Ma no, per carità, ma adesso io non la voglio seguire neanche un secondo su questi studi biologici. A parte questo, il fatto che ci sia un libro, che ci sia stata la possibilità anche di fare una trasmissione televisiva, ci ricorda a quanta bassezza siamo arrivati ormai in Italia. Quindi La notizia viene vista né con depressione da parte della gente né con enfasi, è una notizia che riguarda il paese circa 21 anni fa, che il paese ha superato, abbiamo voltato pagina, però senza strappare la pagina, perché non la storia questo non si strappa. Però sindaco, io continuo a distinguere, non è che lo faccio, la questione dell'invito in televisione mi sconvolge, è veramente una cosa che io pensavo non fosse in realtà vera, invece c'è confermato la dottoressa Cossia, è vera, cioè c'è qualcuno che ha pensato di invitare Pietro Maso a parlare in una trasmissione pre-natalizia, anche questo ha il suo significato, dell'amore per i genitori, è stata fermata questa iniziativa dal giudice Cossia con noi. La questione del libro, io lo ripeto, non l'ho letto, ma non la vedo così sconvolgente, nel senso, per carità, è uno dei libri più belli e più intensi sulla mafia, sono le memorie che Saverio Lodato ha raccontato e ha raccolto di Giovanni Brusca, colui che ha schiacciato il bottone a Capaci. Bisogna vedere che cosa c'è scritto, voglio dire, poi nella storia della persona. Però la mafia è un fatto sociale che coinvolge la società italiana da tantissimi anni e da secoli. Questo è un fatto personale, un fatto, per carità, un delitto di sangue ferato sul quale dice c'è il rischio, si vuole aspettare. Non c'entra niente. Allora, ragionamento: nelle scuole è stato eliminato il Manzoni con i Promessi Sposi. Speriamo che non ci sia il libro nuovo che di Pietro Maso, tra l'altro da Mondadori. Questo da Mondadori. Perché dice tra l'altro da Mondadori? Sì, cioè, non è una casa editrice di ultima generazione, di ultimo piano. Va bene. No, pensavo ci fosse un retro significato, no, una delle case editrici più importanti in Italia, questo voleva dire. Allora, prima di tornare da Gianfranco Bettin, vorrei qualche ascoltatore, ovviamente dite quello che pensate, senza problemi. Carlo da Modena, buongiorno. Carlo. Buongiorno, sì. Io sono d'accordo sulle ragioni della scarcerazione. Vorrei però sapere che fine ha fatto l'eredità. Vorrei chiedermi, cioè, se questo patrimonio grandante di sangue è stato destinato, sequestrato a fini socialmente utili. Questa è una domanda interessante, Carlo, perché l'hanno fatta moltissimi. Io infatti mi ripromettevo di farla, e grazie, mi ha anticipato. Forse Bettin ci può aiutare, Bettin, l'eredità di Maso. Molti si chiedono, ma adesso potrà addirittura avere diritto all'eredità? Credo proprio di no. No, mi pare che sia stata una sentenza particolare, comunque è rimasta al resto della famiglia, alle sorelle in particolare. Quindi non, lui non può. Non so, dottoressa Cossia, lei, anche se è un aspetto tecnico che nulla riguarda, sa qualcosa dell'eredità? No, al di là del fatto che non penso si trattasse di tutta questa eredità, ma penso che sia stata divisa tra le sorelle, che lui abbia rinunciato. Ha rinunciato. Sentiamo Gianluca da Milano, buongiorno. Buongiorno. No, la mia domanda è la seguente, io ho saputo, appunto, posso capire i 30 anni per l'omicidio, anche se io darei l'ergastolo, questa è solo la mia opinione, però non capisco quando per un delitto di questo tipo si prendono 30 anni e se ne fanno 22, perché un terzo in meno della pena mi sembra assolutamente fuori luogo. Guardi, allora, 3 anni sono per l'indulto. E quindi poi ogni quando si fa buona quando si mantiene una buona condotta, c'è Gianluca, mi ascolta? Sì, sì, sono qui. Quando si mantiene buona condotta si maturano ogni 45 giorni ogni 6 mesi, cioè ogni 6 mesi di buona condotta si scalano 45 giorni, ma sono le regole che valgono per tutti per il carcere, quindi lo so, ma io infatti discutevo le regole, cioè, quello che fa arrabbiare molti secondo me è proprio questo, che non c'è certezza, se uno prende 30 anni, lo dicono in televisione eccetera, certezza, 22 anni sei fuori. La certezza è con queste regole, cioè la certezza è 3 anni, l'indulto è stata una cosa eccezionale che c'è stata, potevano esserci state, lì sono 3 anni abbonati per lui come per tutti, e poi se si mantiene la buona condotta in carcere ci sono i 45 giorni che vengono maturati ogni 6 mesi, però è un'ottima considerazione per la dottoressa Cossi. Dottoressa, guardi che il pensiero di Gianluca è il pensiero di molti, è chiaro, lei dice noi applichiamo le regole, però ci spieghi come sia possibile una cosa del genere. Allora, spiego che l'introduzione dei benefici, quale la liberazione anticipata, che è quella che lei ha spiegato, non è un gesto di bontà. È stata introdotta dal legislatore negli anni in cui le rivolte in carcere hanno portato a fatti sanguinosi che forse ci ricorderemo un po' tutti, l'evasione da San Vittore. Sono stati anni in cui era veramente impossibile tenere l'ordine all'interno delle carceri, a maggior ragione questo avviene quando si è in una situazione di sovraffollamento. Evidenzio che da quando è stata introdotta la liberazione anticipata, le rivolte in carcere, nonostante le condizioni drammatiche per cui siamo stati più volte condannati, più e più volte condannati dall'Unione Europea, sono cessate, perché al condannato la possibilità di ottenere uno sconto di pena chiaramente dà una speranza, dà un senso di certo, induce alla condotta regolare. Però lei sa, dottoressa, che dall'altra parte gli ascoltatori, gli italiani, moltissimi pensano che questo sia un regime troppo buonista. È vero che lei ci ha fatto riferimento per esempio di quello che succede in altri paesi, dove addirittura a Breivik per 90 e rotte persone uccise danno al massimo 22 anni. Sì. Però di fronte all'accusa di troppo buonismo del legislatore, lei che risponde? Ma io spiego che la flessibilità della pena, cioè l'introduzione delle misure alternative in fase esecutiva, ha avuto un risultato in termini di abbattimento della recidiva, cioè di sicurezza sociale di tutti noi, straordinario. È l'unica legge in materia penale che ha veramente funzionato. Cioè, spieghiamolo, in base ai dati ufficiali. In base ai dati ufficiali. Abbattimento della recidiva vuol dire che chi esce dal carcere commette meno reati rispetto a. Non ne commette più. Passiamo dai condannati che scontano la pena fino all'ultimo minuto tornano a ricommettere delitti nella misura del 70%. Ai condannati che viene, a cui viene concesso un percorso costituito dall'ammissione progressiva a benefici di legge, che possono andare dai permessi premio alle misure alternative, il termine di, il tasso di recidiva si abbatte al 20%. Ovviamente quindi, qua molti ci spiegano, non so, il caso Izzo, vabbè, il caso affrontare, caso affrontare Izzo, un caso purtroppo non fa statistica, però d'altronde fa notizia. Il caso Izzo è stato una tragedia, naturalmente, una tragedia su cui ci si deve interrogare, non sono certo io a dire che non sia così. Però sto cercando di spiegare soprattutto la difficoltà enorme di mettere in piedi un progetto di riabilitazione che abbia una qualche possibilità di tenuta. Ah, su questo non c'è dubbio. Mi faccia sentire un altro ascoltatore, Franco da Roma. Buongiorno Franco. Buongiorno dottor Milan. Senta, al di là della pena o della lunghezza, che per me i 22 anni sono pochi, obiettivamente, in alcuni ordinamenti giudiziari europei la pena è commisurata all'età, quindi questo signore sarebbe stato in galera almeno fino a 70 anni. E infatti però, scusi, ha giocato nella pena, la interrompo su questo, il fatto che lui avesse 19 anni e 9 mesi, cioè ha giocato a suo favore, questo intendo. Era maggiorenne? Sì, era maggiorenne, certo, ecco. 19 anni e 9 mesi. Scusi, dottor Milan, ma perché in Italia si danno tanti indulti e tante, come dire, amnistie, si costruiscono carceri? È la discussione di cui si sta parlando, infatti. Al di là di questo, siamo arrivati all'aberrazione. La signora Knox, la signora in America, sta per pubblicare un libro e spenderà 4 milioni e mezzo di dollari. Prenderà. Forse, va bene, questo signore è fatto morale, pubblicare un libro su un omicidio. E anche il signor Maso, con un giornalista, probabilmente pubblicherà un libro e probabilmente venderà ancora parecchie migliaia di copie. Questo non lo so. È stato invitato in televisione. Siamo all'aberrazione totale. Questo sì, questo mi ha sconvolto. Cioè mi sconvolge totale. Di più. Soprattutto l'omicidio paga, mi scusi. Ma l'omicidio paga. E guardi, questa è la considerazione sulla quale ci saranno, immagino, polemiche. Certo, quello che mi ha colpito di più è, e io ripeto per la terza volta perché non ne sono uscito da questa storia, è l'invito che gli è stato fatto a Pietro Maso, quando era ancora tra l'altro in carcere ma in regime di semilibertà, per partecipare alla trasmissione sotto Natale, nella quale doveva parlare dell'amore nei confronti dei genitori. Succede anche questo in Italia. Io mi devo fermare qui, ringrazio davvero tutti i miei ospiti, la dottoressa Roberta Cossia, Edoardo Pallaro, sindaco di Montechieri Crosara, e Gianfranco Bettin, che ci hanno parlato, insomma, di questo caso di Pietro Maso. La politica, insomma, vedete, tanto è tutto immobile. Il cellulare di Mario Mauro era spento e doveva essere, quindi immobile e spenta. Questo è il segno un po' della politica italiana, e così inizia questa settimana per l'elezione del successore di Napolitano. Chissà, intanto noi ci troveremo domattina alle 6:30.